con Enrico Castellani di Babilonia Teatri per presentare lo spettacolo Calci in culo che sarà a Shore Theater a Roma il 7 e l'8 settembre. Enrico, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Lo presentiamo? Sì, certo, molto volentieri. Calci in culo ha appena debuttato pochi giorni fa dopo l'estate festival a Bassano. È uno spettacolo che vuole provare a raccontare il nostro mondo, quello che abbiamo attorno, a provare a raccontarlo in tutte le sue contraddizioni e a farlo con uno sguardo molto disincantato, che però mette insieme una sorta di cinismo nei confronti di tutto quello che ci circonda, delle contraddizioni che poi sono le nostre, però riconoscendo per l'appunto che sono le nostre contraddizioni prima di tutto e quindi mostrando anche un affetto nei confronti di quello che siamo, quindi non mettendoci sopra un piedistallo a giudicare, ma provando invece a far trasudare quello che è il nostro stare in questo mondo oggi, anche in tutto quello che non ci convince, che non ci piace, che spesso e volentieri per noi è orrificante, a volte anche insopportabile, e con il quale però con chi conviviamo e continuamente veniamo a patti. E questo ha a che fare un po' con tutto quello che ci circonda, e quindi sia col nostro stare nel mondo, sia con la modalità con cui il mondo invece continuamente entra nelle nostre vite e in qualche modo le condiziona. È uno spettacolo dove utilizziamo la musica come linguaggio forse principale per la prima volta, nel senso che nei nostri spettacoli la musica, le canzoni non sono mai state un contorno, in qualche modo hanno sempre fatto parte della drammaturgia, ogni canzone era lì perché aveva un significato e doveva raccontare qualcosa, esprimere un contenuto. Ma qui per la prima volta abbiamo scritto delle parole per delle canzoni che Lorenzo Scuda, che è uno dei fondatori, il musicista degli Oblivion, ha musicato, ha fatto diventare canzoni e che Valeria canta live sul palcoscenico. Per cui è uno spettacolo che ha una forma ibrida, una forma che non sta dentro nessun canone, è uno spettacolo teatrale, però allo stesso tempo è anche un concerto. Sì. Che genesi ha avuto come lavoro? Ma è uno spettacolo che nasce dalla nostra voglia intanto di tornare in scena insieme io e Valeria, cosa che non facevamo da molti anni, che nasce dal nostro bisogno di tornare a fare i conti con il mondo fuori, l'esterno, quello che ci circonda un po' a 360 gradi, quindi non scegliendo un oggetto di indagine o un tema da affrontare, ma provando a guardare il panorama mondo a partire dal nostro micromondo, ma per poi allargare lo sguardo verso fuori, e che quindi nasce esclusivamente da un'esigenza nostra, da un nostro bisogno, da una necessità e non da altri tipi di condizionamento qualsiasi. Ecco, proprio in questo senso, l'altro giorno nel presentarlo nell'agenda della settimana teatrale che abbiamo fatto, Simone Nebbia di Teatro e Critica lo ha definito per certi versi un vostro ritorno alle origini. È corretto? Sì, noi siamo d'accordo con quello che diceva Simone, nel senso che era un po' la voglia di tornare alle origini del nostro teatro, del nostro fare teatro, e quindi di provare come dire, a tornare all'essere noi sulla scena da una parte e a guardare verso fuori senza nessun tipo di mediazione, ma assolutamente in modo il più diretto possibile. E questo spettacolo credo che lo riesca a fare in modo forte e chiaro. Ecco, Enrico, più in generale, che bilancio fai del vostro percorso e dove state dirigendo il vostro sguardo, la vostra attenzione? Il nostro percorso è sempre stato molto libero e direi molto aperto, nel senso che non abbiamo mai scelto una via univoca e predeterminata, ma sono stati gli incontri anche a determinarlo. E in realtà, se all'interno del nostro fare teatro esistessero possibilità diverse che non si escludono, ma che secondo noi invece si comprendono, per cui il nostro non essere attori sul palcoscenico ci porta a scegliere di lavorare in alcuni spettacoli, ci ha portato e credo che ci porterà a lavorare con persone che attori non sono. In chiusura, Enrico, ci lasci tutti i riferimenti web per seguirvi? Sì, per seguirci il nostro sito è babiloniateatri.it, altrimenti Facebook, che è sempre Babilonia Teatri, e lì si può trovare tutte le indicazioni rispetto alle repliche, il nostro percorso, qualsiasi curiosità. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma alla Short Theater il 7 e l'8 settembre con il nuovo spettacolo Calci in culo di Babilonia Teatri. Enrico Castellani, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci vediamo lì. Un abbraccio a te, crepi il lupo. A Ciao presto. Enrico.